bene. Tutti quanti l'avete distribuita, avete consegnato tutte queste cose più grave che sono fatte. Questo, ecco cosa volevo dire. Spero che non l'abbiate scritto, il programma non era chiaro. Basta! Lo dirono prima, quindi. Te l'avete scritto, il programma consiste in questo, programma della modulo A, la prigioniera e la fuggitive, da leggere in tutti, evidentemente, tutti i due volumi, però in francese, con traduzione, i passi commentati, solo i passi commentati. Questa è stata una innovazione enorme, straordinaria. Poi, ve lo annuncio, ma poi sarà scritto, portate il libro di Tadier, Proust, l'opera, la vita, la critica, il Saggiatore, 2003, pagine 15.700. Poi portate Enrico Guaraldo, In cerca del mattino, Milano Franco Angeli 2004, che dovrei copiare. Per il non frequentato, non mi riguarda, c'è il libro di Giovanni Macchia, L'angelo della notte. Quindi sono il libro di Proust, quello di Tatier e quello del sottoscritto. Capito? Questa ragazza è una che non ho un problema, chiede costante chiarimenti, ripetizioni. No, ma io la capisco, me devo sapere. Che cos'è che vuole sapere? Il mio nome è Enrico Guaraldi. In cerca del mattino, Enrico Guaraldi. L'altro, Yves Tadier, Proust, punto, l'opera, la vita, la critica, il saggiatore, collana NET, NET, 2003. Quello di letto al contrario, 2003, NET, il saggiatore, Proust, l'opera, la vita, la critica, Javier Tadier. Ve lo leggo in senso normale, Javier Tadier, Proust, avete capito? Allora, attenzione, iniziamo la fugitive, abbiamo dovuto perdere tempo oggi, speriamo di. Comunque vi chiederò delle ore di recupero, come sapete, perché siamo indietro, vi chiederò almeno un paio di ore di recupero che combineremo. Che piacere. Buongiorno, quindi lei non ha neanche potuto dare il modulo. Vabbè. Buon appetito. Buon appetito. Che cosa ti dice? Può prendere comunque il foglio con lo stesso, c'è più un foglio avanzati? Allora. Fai dentro da un ombrello. Allora, attenzione, la fuggitive che stiamo per leggere presenta dei problemi filologici che è opportuno che nella loro sostanza sappiate, perché sono molto significativi. Anzitutto il titolo, la fuggitive, si contrappone, come voi potete comprendere, all'altro, alla prigioniera, no? In realtà Proust voleva dare, attenzione bene a quei dettagli che sono, non sono cose facili da ricordare, e Proust voleva dare come titolo Sodome e Gomorra, cioè la continuazione del precedente, Trois per quanto riguarda la prigioniera e Quattro per quanto riguarda la fuggitiva. Questo fatto di voler dare il titolo Sodome e Gomorra ha un suo significato molto preciso, cioè vuol dirci che, come nel mondo di Sodoma e Gomorra, evidentemente il tema dell'omosessualità maschile e femminile. L'omosessualità femminile, come sapete bene, si chiama tribalismo, la parola colta. E il tema dell'omosessualità è al centro della prigioniera e della fuggitiva, nel senso specifico che poi si tratta praticamente di questi due grandi omosessuali, la donna e l'uomo, che sono Charlus, di cui non abbiamo parlato, perché è uno dei grandi personaggi della recherche, e Albertine, di cui invece abbiamo parlato. Venne poi, dopo molte incertezze, scelto ma cos'è meglio, la fuggitiva, eccetera. Quando fu scelto la fuggitiva e la prigioniera, successe che l'editore Gallimard, cioè lo stesso di Proust, stava pubblicando un libro di Tagore, il grande scrittore indiano. Era un libro di versi e si intitolava La fuggitiva. Tagore era un personaggio di grande entità, allora non si poteva usare già un titolo, o impiegare un titolo già usato. A quel punto l'incertezza fu grossa, no? Che cosa fare? Ma chi è che ebbe questa incertezza? Non ebbe Proust questa incertezza, che continuava a agitarsi nel dubbio, perché a Proust nel frattempo capitò un fatto spiacevole, cioè morì. Che è di tutti i fatti che ci possono accadere, indubbiamente, è più spiacevole. Proust morì nel 22. Una commissione, per così dire, categgiata da Jacques Rivière, che era uno dei numi della Nouvelle Revue Française, amico di Proust, scrittore squisitissimo, e che in cui si trovava anche l'erede di Proust, cioè il fratello, Robert. Attenzione estrema. La commissione fece i suoi lavori per mettere a posto il testo di questo secondo libro, La Fugitive, e questi lavori vennero conclusi nel 25, quindi 3 anni dopo la morte di Proust. La commissione aveva a disposizione, in linea teorica, il manoscritto e 2 dattiloscritti con correzioni molteplici, uno uguale all'altro, una copia, e il fratello Robert decise di passare alla commissione solo uno dei 2 dattiloscritti. Cioè i dattiloscritti, i dattiloscritti identici, i dattiloscritti. Non il manoscritto. Attenzione, non il manoscritto. Perché? E chi lo sa? Perché era geloso, perché non si sa. Lui pensò che questa... Robert non capiva niente di letteratura, naturalmente. Comunque il manoscritto lo tenne per sé. Spesso la commissione si trovò a operare e avendo bisogno di capire certe cose, quindi chiedeva a Robert il manoscritto per confrontare. Robert si comportò in un modo stranissimo, cioè il manoscritto non lo mollava. Tutto questo raccoglie problemi notevoli, comunque alla fine, con qualche volta che gli aveva dato il manoscritto, eccetera, il libro del 25 appare. Con quale titolo? Con il titolo Albertine disparu. Va bene? Albertine disparu. E ricordate il manoscritto è quello di questo. Passa molto tempo. Robert ha avuto una figlia che si chiama, questo ve lo dico, non mi c'è bisogno che lo sappiate, ma tanto per orientarvi, ha avuto una figlia che si chiama Suzy. Questa ha avuto dei figli, attenzione, va bene? Di questi figli, una ragazza che si chiama Nathalie si sposa niente po' di meno che con il figlio di François Mauriac, che è un grande scrittore cattolico, uno scrittore celeberto, no? Nathalie si sposa qui, Nathalie sarebbe in questo modo la pronipote di Proust, va bene? Si sposa con Claude Mauriac. Nathalie, figlia di uno dei figli di Suzy, va bene, Nathalie, trova un giorno, negli anni 80, quindi siamo Portalisti nel tempo, trova un qualcosa, ma non me lo dico ancora, mi lascio la carta. Vi dico invece che dopo l'edizione del 25 c'era stata un'altra edizione del 54, quella che io ho qui, della Pleiad, va bene? Che venne fatta solo sul manoscritto, quindi il testo a cui mi rifaccio io è solo sul manoscritto. E i miei scritti erano scomparsi. Quindi i curatori della Pleiad si sono trovati di fronte a questo fatto che i miei scritti erano scomparsi, c'era solo il manoscritto. E la situazione capovolta quella iniziale, in cui c'erano solo i nostri scritti e il manoscritto era di scarsissima possibilità, c'era scarsissima possibilità di consultarlo, vedete? Che cosa trova Nathalie Mauriac? Trova una copia dei dattiloscritti. Questo è avvenuto negli anni Ottanta. Se non che, aprite bene le orecchie, in questa copia c'è di mano di Proust, di pugno di Proust, scritto quanto segue. Qui finisce la fugitiva. Abolire tutto il resto. Tutto il resto, solo la bellezza di 250 pagine che contengono le cose più belle della recherche. E cioè il soggiorno a Venezia dopo la morte di Albertino. I critici hanno pensato una sola cosa. Avete capito bene? Primi dati lo scritti e non il manoscritto. Poi il manoscritto e non i dati lo scritti. Poi un dati lo scritto ma in cui c'è questa cosa spaventosa. I critici hanno pensato una sola cosa. Cioè sarebbe come se Leonardo, mettendo a posto le sue opere, decidesse di abolire la Gioconda. Chiaro? Tutti hanno pensato, Proust era impazzito. Non c'è una spiegazione possibile. Il mio maestro, Giovanni Macchia, fece un'ipotesi. E devo dire che io ho collaborato alla... collaborato nel senso che ho lì proprio alla stesura di quest'ipotesi. È un'ipotesi. Proust aveva già pubblicato due pezzi della recherche su una rivista come si usava allora, come si usa ancora adesso, che si chiamava Les œuvres, le opere libre, libere. Allora l'ipotesi di Macchia, che è un'ipotesi, è che Proust, quando ha detto in questo che ho scritto, chiudere qui, è perché voleva fare una edizione minor, per così dire, compatta di quello che lui chiamava, di quello che si può chiamare, il romanzo di Albertino, destinato alla rivista. Quindi lui non voleva in realtà sopprimere questa parte, ma per la rivista, è chiaro il punto, voleva fare una versione ridotta. Va bene? Quasi finito, eh? Quasi finito. Oh, questa ipotesi, scusate, c'è un dettaglio tecnico che volevo dirvi, no, prego, io ho detto tutto. Questa ipotesi da chi è suffragata? Da niente, però non c'è un'altra spiegazione possibile. Resta che Nathalie Mauriac, con atto assolutamente spregiudicato, ha pubblicato la versione ridotta della recherche negli anni Ottanta. Il curatore della seconda edizione della Pleiade, quindi non quella che ho io, che si chiama Tardier, ha tenuto conto naturalmente di questo canticchio. Che fare di fronte a un fatto di questo genere? Questa è la sostanza del fatto. Di fronte a un fatto di questo genere, bisogna capire chi, e questa è la cosa delicata da dire e da dirvi, che l'arte può essere incompiuta. e che ci sono misteri che arricchiscono in qualche misura un luogo artistico di somma importanza come questo, no? In modo non troppo dissimile da quanto è capitato in Toto all'uomo senza qualità di musica, che non sai mai dove finisse, perché tra inediti, correzioni di bozze, capitoli che sono stati soppressi, a un certo momento, per una parte l'uomo senza qualità funziona benissimo, ma per un'altra parte, dopo 1500 pagine, comincia a non funzionare più. Naturalmente è molto affascinante poi addentrarsi, per uno che fa lettere e che ama queste cose, vedere quello che ha tolto lo scrittore, per vedere come si è comportato. Ma certamente questo rimane un grande mistero, che secondo me rende ancora più affascinante il caso della Recherche. Cioè, la Recherche non è un romanzo che finisca, che sia ultimato in tutti i suoi dettagli. Per dirvi, Le Tante Fauve, cioè l'ultimo tomo, non è stato rivisto da lui. Quindi lo stile è diverso, è ricchissimo di pensieri, ma uno non ritrova più, salvo che in certi momenti, lì lo stile familiare. Tant'è, la vita è incompleta, almeno la mia, probabilmente incompleta, non so se la vostra è completa, piena, la vita è incompleta e l'arte pure. Questo è il fatto. Dobbiamo accettare quest'idea. Dobbiamo accettare quest'idea. È chiaro questo discorso? Dovevo citarvi questi fatti di carattere filologico, perché sono molto importanti anche per capire eventuali discrepanze che ci può essere nel testo che voi avete sotto mano con quello che ho detto. Ciò detto, andate direttamente a prendere, adesso vi dico come si arriva, a partire da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. È il capoverso che comincia con la souffrance, prolongement del choc morale posé. Quanto? Capito niente? 13. 13. Domani, leggeremo la cosa, ascoltate bene, lo dico con un pizzico di enfasi, ma perché sarebbe la cosa più bella, secondo la mia opinione, vecchio lettore che ha letto di tutto, la cosa più bella, ma bello come il monologo di Amico, di più, bello come le ultime righe di Holly Blue, insomma, quello che vediamo domani è al di là dell'immaginazione. Ascoltate quello che succede. Albertine se ne è andato. E la prima cosa che il narratore ha come la prima reazione è anche che non ci crede e che non vuol credersi. Voi sapete perfettamente quando ci capita un lutto qual è l'espressione che tutti quanti istintivamente usiamo per noi, ma anche quando abbiamo la notizia della morte di una persona, o anche di cosa diciamo? Qual è la frase che diciamo? No? No? No? Oppure? Non è possibile. Non è possibile. E lui questo dice. E si trova poco dopo, attenzione bene, poco dopo da solo, nella stanza dove fino a un momento prima c'era stata Albertina. Ma quella stanza ormai è priva della presenza di Albertina. Traduco direttamente. La sofferenza, prolungamento di un colpo morale incerto, aspira a cambiare fuori. Si spera di dissolverla facendo progetti, chiedendo informazioni, si vuole che passi attraverso le sue innumerevoli metamorfosi. E questo richiede meno coraggio che conservare la sofferenza tutta intera. Pare così stretto, così duro, così freddo, il letto dove ci si colleghi col proprio dolore. Mi rimisi in piedi sulle mie gambe. Non avanzavo nella camera che con una prudenza infinita mi ponevo in modo di non scorgere la seggiola di Albertina, la pianola sui pedali della quale aveva appoggiato le pianelle dorate, uno solo degli oggetti che avevo usato e che tutti, nel linguaggio particolare che avevano loro insegnato i miei ricordi, sembravano voler dare una traduzione, una versione differente, annunciarmi una seconda volta la notizia della sua partenza. Ma, senza guardarli, io li vedevo. Le mie forze lo abbandonarono, caddi seduto su una delle poltrone di raso azzurro di cui un'ora fa. Un'ora prima. Nel chiaro oscuro della camera anestetizzata dal raggio di luce, il luccichio mi aveva fatto sognare sogni appassionatamente carezzati allora così lontani da me adesso. Ahimè, non mi ero mai seduto prima di quel minuto che quando Albertina era ancora lì. Così non potei restare seduto e mi alzai. E così, a ogni istante, c'era qualcuno degli innumerevoli e umili io che ci compongono, che ancora ignorava la partenza di Albertine e bisognava notificargliela, bisognava, il che era più crudele che se fossero stati estranei e non avessero preso a prestito la mia sensibilità per soffrire, bisognava annunciare la disgrazia che era capitata a tutti questi esseri. A tutti questi io che non lo sapevano ancora, bisognava che ognuno di essi, giunto il suo turno, sentisse per la prima volta queste parole. Albertine ha chiesto i suoi bagagli, quei bagagli in forma di bara, che avevo visto caricare a Valbecca a fianco di quelli di mia madre. Albertine se n'è andata. A ognuno dovevo comunicare il mio dolore, il dolore che non è affatto una conclusione pessimista liberamente tratta da un insieme di circostanze funeste, ma la reviviscenza intermittente involontaria dell'impressione specifica venuta da fuori e che non abbiamo scelto. C'era qualcuno di quelli io che non avevo più rivisto da abbastanza tempo, per esempio, non avevo pensato che era quello il giorno del parrucchiere, l'io che io ero quando mi facevo tagliare i capelli, avevo dimenticato quell'io lì, il suo arrivo mi fece scoppiare in singhiozzi come alla sepoltura, quella, a una sepoltura, quella di un vecchio in pensione che ha conosciuto colei che è appena morta. Vediamo. La sofferenza, prolungamento di un colpo morale imposto, aspira a cambiare forma. Ed è proprio così, nel senso che, vedete, noi non possiamo stare su un pensiero tragico più di tanto, è intollerabile, e dobbiamo in qualche misura spostarlo, cambiarlo, ma al tempo stesso, mentre cambiamo il pensiero di sofferenza perché è troppo terribile averlo sempre qui fisso in testa, ci rendiamo conto dello sforzo spaventoso di questo dover cambiare il pensiero di sofferenza. Dover cambiare il pensiero di sofferenza. Si spera di volatilizzare la sofferenza, chiedendo informazioni. Questa persona è fuggita e allora vorrei sapere se qualcuno sa dirmi dove è andata. E perché si vuol cambiare il pensiero di sofferenza? Perché è l'immobilità del soffrire l'aspetto più terribile del soffrire. È un po', dice Proust, come il mal di denti, che vorremmo che fosse in un altro punto della bocca e invece è sempre inesorabilmente poi nello stesso punto, quando un dente ci vuole. Si alza. E cammina per la camera con una potenza infinita. Quando siamo stati abbandonati dall'oggetto d'amore, che è la grande tragedia, può essere nel lutto naturalmente, può essere perché te ne è andato, che è la grande tragedia della vita. Io dicevo già che insomma una delle cose diaboliche, se così posso dire, della Chiesa del cristianesimo, della Chiesa cattolica in particolare, è quella di aver immaginato l'inferno come che cosa? Non come insegnavano al catechismo, come fiamme, adesso sono molto di moda questi discorsi qua, sapete? No, no, no, ma l'inferno è stare lontano dall'oggetto d'amore, ecco. E le fiamme cosa sono? E le fiamme sono meno terribili che stare lontano dall'oggetto d'amore, sapendo che l'oggetto d'amore tu non lo vedrai più. E quindi quando è successo un qualcosa di questo genere, siamo stati abbandonati, noi siamo prudentissimi nel senso che non guardiamo gli oggetti. Un amico dell'Accademia dei Licei che ho, illustrissimo, un anziano professore a cui è mancata la moglie dopo 50 anni, è il mio amico, una persona che mi onoro della sua così intima amicizia, è scomparsa la moglie, non sapevo che la amasse tanto. Ma lui mi diceva che le cose più spaventose, una cosa analoga a questa, con il fatto che l'abbandono dell'oggetto d'amore avvenga ancora del lutto, perché lì c'è l'offesa, c'è l'umiliazione, eh? E comunque questo signore mi diceva che la cosa peggiore sono gli oggetti, sì, i piccoli, infiniti oggetti che una persona ha lasciato di sé nella casa, che sono gli occhiali, che sono un astuccio, che sono una penna, una matita, piccole cose che nel momento in cui le guarda si ricorda la persona. E quindi lui cammina con prudenza, non solo cammina con prudenza nella sua casa, ma quando è successo qualcosa di grave è come se non volesse né parlare né sentire, è come se volesse essere raccolto in se stesso, proprio perché qualsiasi cosa può fargli male. Cammina con prudenza e si mette in modo da non vedere la seggiola di Albertino. È successo poco fa, un'ora fa, non vuole vedere la seggiola, la pianola su cui lei metteva le sue pianelle sui pedali, le pianelle dorate, uno solo degli oggetti che aveva usato. Vi faccio notare che l'usé in francese vuol dire usare, attenzione, ma non vuol dire solo usare, vuol dire anche consumare. E quindi gli oggetti della nostra vita noi li usiamo naturalmente, ma li consumiamo. Pensate per esempio a questo oggetto della mia vita, vedete questo libro che è con chi lo vedete con lo scotch come è stato aggiustato. Quindi pensate quanto la mia presenza c'è in questo libro, quanto se io volessi in questo momento, no, questo libro ricorderebbe la mia vita. E quindi lui guarda la seggiola di Albertine e pensa che non sia a un certo momento cade seduto su una seggiola e pensa che su quella seggiola su cui è caduto seduto non si era mai seduto dopo la scomparsa di Albertine, solo prima. Quindi quando si era seduto prima non sapeva ancora che Albertine era scomparsa, avete capito il punto? No, non sapeva ancora. Poi ci sono altre volte che si siederà dopo la prima volta e allora Albertine ormai è partita, ma intanto è tutto nuovo e avverte che non solo è tutto nuovo, ma avverte anche una cosa, che noi siamo fatti tanti io. C'è Dio che legge, c'è Dio che va al gabinetto, c'è Dio che si lava i denti. E bisognava dire a tutti questi io che Albertino non c'era più. Capite? Che Albertino non c'era più. Bisognava dire al Dio del parrucchiere, perché quel giorno era il giorno del parrucchiere. E lui pensa, ma l'ultima volta che sono stato dal parrucchiere, anzi che è venuto dal gran signore, il parrucchiere a casa sua, Albertino c'era ancora. Adesso l'io del parrucchiere è mio che non sa ancora, io quindi devo dirgli, guarda, io del parrucchiere, che Albertino se n'è andato. Che cos'è il dolore? Il dolore non è qualcosa, dice lui, di astratto, non è la conclusione pessimista di un insieme di circostanze funeste. No. Il dolore, sentite questa definizione, è la reviviscenza, cioè torna a vivere, intermittente, involontaria di un'impressione specifica, venuta dal di fuori, e che noi non abbiamo scelto. Cioè, il dolore è quando tu, camminando per la strada, senza che lo voglia, una minima cosa, una veranda al bar, ti fa soffrire. Ti fa soffrire una veranda che lei prendeva, che lui prendeva, anche senza che tu l'abbia chiesto. Ecco perché bisogna stare zitti, occhi, orecchie tappate, per non sentire se lei amava Bettiano. Una spremuta di arancio, per non sentire qualcuno che innocentemente al bar chiede una spremuta di arancio e tu pensi che lei chiedeva la spremuta d'arancio. Dobbiamo fermarci qui, continuiamo domani.